Oh, niente, ciao a tutti, sono Renato Nicola del collinamento Lombrina e anche del collinamento nazionale diciamo così, contro devastazione e saccheggio dei territori, dei diritti sociali. E noi abbiamo ampliato, come facciamo da quando abbiamo iniziato questa lotta, lo spazio e l'intervento anche di altre persone che sono contro la petrolizzazione dell'Adriatico, e il 26 di questo mese ci siamo incontrati con movimenti dell'Albania, della Croazia, del Montenegro, della Slovenia, eccetera, e insieme anche a una persona del Trivelle Zero, e anche erano presenti anche quelli di Lega Ambiente, per valutare insieme la situazione che c'è nell'Adriatico. E come dicevi giustamente tu, praticamente noi abbiamo dei paesi che diciamo così, che hanno già bloccato le petrolizzazioni e altri che si apprestano a farlo, come appunto la Croazia e la Slovenia. Quindi praticamente tutta l'armamentario ideologico per il quale noi dovevamo comunque avviare la petrolizzazione, che comunque ci sarebbe stata per colpa dei croati, è completamente falsa, no? Ma il problema, la cosa che abbiamo appreso lì è stato anche che c'è una forte pressione popolare. Non è soltanto un problema che il governo ha bloccato, ma il governo ha bloccato perché c'è una iniziativa cittadina che si sviluppa sempre di più, ed è una cosa veramente nuova per questi paesi, perlomeno nella portata e nella grandezza di questi movimenti. Quindi anche i governanti ne hanno dovuto tenere conto, cosa che qui in Italia ancora non avviene. E si sono decise delle cose insieme, quali una iniziativa presso la Commissione europea, perché non c'è stata una valutazione sull'effetto cumulo, e anche perché non è stata fatta una valutazione di impatto ambientale transfrontaliero, perché magari ci può essere in una parte una valutazione fatta che dà dei risultati negativi e dall'altra parte anche negativi, ma insieme arrivano a, diciamo, a elevare talmente tanto la possibilità di inquinamento che andrebbero bloccati. Questa valutazione trasfrontaliera non è stata fatta e l'effetto cumulo non si è assolutamente considerato, e per cui insieme sia da questa parte dell'Adriatico che dall'altra faremo un'azione verso la Commissione europea perché valuti questa cosa. E poi faremo un dossier insieme, proprio per mettere insieme tutte le cose dell'Adriatico e attraverso questo continuare la lotta. Ci sembra che una cosa molto carina è stata quella che loro ci hanno chiesto molto su come abbiamo fatto a portare in piazza 60.000 persone, come stiamo costruendo questo movimento. Quindi non è stato soltanto un incontro, diciamo così, sulle azioni da fare, ma anche di ragionamento sulle forme di lotta, su come si procede, eccetera. Quindi insomma è una cosa molto importante, è uno degli obiettivi che ci eravamo posti quando abbiamo iniziato questa lotta, per cui siamo contro Lombrina, ma sotto le nostre bandiere abbiamo sempre scritto salviamo l'Adriatico, proprio perché, per quanto possano urlare i nostri detrattori, noi siamo non subiamo nessun effetto NIMBY, certo. E quindi insomma abbiamo sempre detto che cioè, chi lotta per l'Adriatico, per la difesa dell'Adriatico, è dell'Adriatico. Non c'è bisogno di nascere nell'Adriatico per sentire e lottare per delle cose, per cui insomma siamo contenti che sia stato questo passo in avanti. Siamo ancora più contenti visto che ne dica il nostro presidente della regione D'Alfonso e altri, qui non abbiamo ancora fatto tutte le cose che vanno fatte per evitare che il 9 di novembre al Ministero dello Sviluppo Economico venga firmato il via libera tecnico per la costruzione di Lombrina. Parlo del fatto che noi abbiamo chiesto la realizzazione di un parco marino che abbiamo visto concretamente cioè può bloccare i lavori di Lombrina e tutto questo l'iter appunto operativo concretamente. Il Parco Marino è un'organizzazione appunto marina, che permette che non è stata cioè che è stata già fatta in altre regioni, in particolare dalla Calabria, e che non è stata osteggiata, non è stata rimandata indietro da parte del governo, per cui ha una sua validità, cioè non è una cosa fatta tanto per fare, cioè un provvedimento approvato solo per pubblicità o per, è un provvedimento che può effettivamente rallentare di molto questa cosa. Il tempo è fondamentale, perché se noi pensiamo che fino a 4-5 mesi fa la Croazia e la Slovenia non avevano deciso niente, vedete quanto può essere importante. Certo, Renzi dovrebbe spiegare a tutti quanti perché i governi di queste due regioni, che se non sono forti come l'Italia a livello internazionale, riescono a bloccare delle multinazionali, e il signor Renzi no, evidentemente non le vuole bloccare. No, è questo, certo, che andrebbe detto, no? Cioè, non lo so, che è una cosa che può sembrare ovvia, però è anche vero che Renzi spesso, come molti politici, giocano sull'immaginario, sul simbolico, e dicono sempre noi siamo contro questo, contro quell'altro, invece non è proprio vero. Soprattutto perché si è giocato molto la carta di paese che si sa difendere, agli occhi anche delle scelte della Commissione, della Troica, eccetera, quindi... Invece non è vero assolutamente per niente, tant'è vero che si tratterebbe forse di chiedere ai petrolieri di non finanziare più non finanziare più Renzi, perché solo forse in questo modo Renzi torna indietro. Adesso facciamo una risata, perché insomma non possiamo solo soffrire. Certo. Poi c'è una cosa, però ecco, ci sono ancora quelli che continuano a essere tosti in Italia, perché noi veramente la faccia tosta, come per esempio quello di Chicco Testa, che è ex Lega Ambiente e che adesso fa il consulente per Rockhopper, cioè proprio quella di Ombrina, no? E praticamente c'è un'intervista sua sul Centro e dice insomma che lui forse proverà a far spostare la nave quella che dovrebbe fare da impianto petrolifero. Mm-hmm. Di altri 3 chilometri in dentro, cioè verso il largo, ma il problema non è un chilometro o 2 chilometri in più, perché se avviene qualche guaio avviene comunque, non è che cambia chissà che cosa. E poi continua a far finta di niente, capiamo che è pagato per far finta di niente, però insomma arriva anche a dire che quando gli chiedono ma i cortei, le manifestazioni, tutta la popolazione che è contro, lei cosa ne pensa, lui dice che è un fenomeno mediatico che è inseguito da una politica spaventata e a caccia di facili consensi. Ecco, cioè non ha capito assolutamente niente. A noi ci fa piacere se non capisce niente, perché sbatterà se la pensa così, anche se sappiamo che in realtà cioè lui parla perché viene pagato, per cui insomma, certo. Ecco, la grande differenza tra questi signori e noi non sta soltanto nella diversità di posizioni e nel rispetto che sa dell'ambiente eccetera, ma il fatto che noi mettiamo in gioco i nostri corpi, le nostre idee, la nostra vita, loro invece dicono tutto quello che dicono, lo dicono per soldi, perché lo fanno per soldi, e quindi insomma è bene che si sappia sempre, non dobbiamo sempre ricordarcelo, perché altrimenti vogliamo restare umani, ma poi insomma dobbiamo capire che tra umani ci sono anche delle differenze enormi. Noi restiamo umani, c'è qualcuno che è diabolico e allora è un po' diverso, insomma. È importante quello che dici, perché purtroppo molto spesso le grandi multinazionali che agiscono sul terreno appunto anche dello sfruttamento di quelle che vengono chiamate le risorse ambientali, spesso fanno ricorso o cercano di cooptare consulenti, esperti eccetera, che magari provengono anche dal mondo ambientalista in senso molto lato, per darsi anche una parvenza, no? di rispetto delle norme eccetera, delle norme della tutela ambientale. Quindi questo gioco sporchissimo che poi si fa sulla pelle delle persone è abbastanza appunto inquietante, sì, per dire poco, ecco. Tant'è vero che il giornale, cioè non lui, ma il giornale risottolinea, no, il fatto del legambiente, perché è un valore, lui è stato preso lì non perché sappia fare chissà che cosa, ma perché il suo valore aggiunto è quello di sputtanare gli ambientalisti del legambiente, che però magari per esempio il legambiente ha partecipato con noi all'incontro, no, in Croazia contro la petrolizzazione, quindi no, è bisogna stare sempre molto attenti, no, a porre sempre delle distanze molto nette, no, perché delle volte poi cioè succede che ti utilizzano veramente in maniera al di là delle tue volontà anche, no, perché io non ovviamente cioè, sono convinto che Legambiente è contro le petrolizzazioni in Adriatico, però cioè, il giornale mette il dito sulla, sì, sulla piaga, no, utilizzando questo contro tutti di noi e contro anche l'ambiente, tra l'altro, quindi insomma, certo, ecco perché giustamente bisogna stare molto molto molto attenti. Posso dire un'ultima cosa? Sì, sì, sì, senza sì, sì. Allora, noi nel frattempo oggi siamo anche in consiglio regionale, dove si sta tenendo una commissione ambiente che sta rivalutando un'altra volta la legge sul parco marino che abbiamo proposto e che in buona sostanza abbiamo anche scritto noi, se vogliamo, insomma, con tutto quello che abbiamo fatto. E se non dovesse passare questa, cioè questa cosa, che è uno, non dico l'ultima spiaggia, ma uno dei pezzi grossi che ci possono aiutare a fermare questi progetti, penso che l'autunno sarà abbastanza caldo qui da noi, quindi io spero che lo approvino, perché abbiamo interesse tutti a evitare la petrolizzazione, ma continuiamo a lottare qui, perché ci sono dei politici locali che giocano, fanno il giochetto con le tre carte, cioè qui dicono che sono contro la petrolizzazione, poi lavorano nei ministeri e anche nelle segrete stanze per non so, aizzare dei settori sociali contro di noi, per esempio qui stanno tentando di utilizzare quelli che fanno la pesca delle vongole eccetera eccetera contro di noi, contro il parco marino e con, cioè abbiamo, cioè abbiamo rinotato ancora un'altra volta quanto può essere infida una politica giocata soltanto da slogan e poi concretamente attuata per andare contro gli interessi della grande maggioranza della popolazione. E lo vediamo, lo sapevamo teoricamente anche, ma lo stiamo verificando giorno per giorno, e quindi e anche queste lotte sono una grande scuola di formazione per tanti di noi. Bene, io ti ringrazio, a questo punto ci risentiremo presto anche per, okay, capire come vi state muovendo in vista appunto di questa conferenza dei servizi di cui parlavi tu del 9 novembre prossimo. E intanto ti auguro una buona giornata e una buona lotta. Grazie a voi. A presto. Buona lotta. Ciao. Ciao.